Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Risto Radio Convento e sono in compagnia dello sposo Michele da Reggio Emilia. Grande Michi! E abbiamo i suoi due amici, come si chiamano? Claudio e Burro! Ma si chiama proprio Burro? Burro, Daniele. Burro. Daniele. No, il burro. Lo chiamano il Burro, Daniele, ragazzi. Daniele ha detto Burro, che è anche uno dei testimoni. Grande Burro! Bene. Ragazzi, ma cosa vi avete combinato allo sposo, più o meno? Da stamattina, diciamo, raccontatemi la vostra avventura oggi. Allora, lo sposo è abbigliato da cerbiatto, perché lui è appassionato di caccia, e oggi è qui come preda, è preda di tutte le spose della serata. Bene. Mi hanno sparato, prima partivamo con del garzellino bianco, poi siamo finiti ad acqua perché il garzellino era finito, ma... E poi Gin Lemon, alla fine Gin Lemon. Ah, ecco perché era profumato. Roba. Adesso l'ho scoperto. Inizialmente in bocca, poi dopo il delirio è arrivato dove è arrivato. Non c'era più una fine. No. E invece domani cosa ti aspetta? Domani è una sorpresa, non possiamo svelare nulla. Ma un piccolo indizio, io sono curiosa. Mi hanno detto di portarmi della roba da sporcarmi molto. Scarponi e roba da quasi buttare via. Quindi secondo me forse o mi portano in grotta o mi portano a sparare. No. Forse ho capito. Sarà così, ovviamente bisogna sporcarsi, bisogna andare nella foresta, per cacciare bisogna ovviamente... Devi cacciare. Bisogna cacciare ancora. Dobbiamo rimanere in tema. Perché oggi ho fatto un po' da preda, un po' da predatore, e domani idem. L'importante quindi resti in tema però. Resti in tema, l'importante è domani fare più da preda, da predatore che da preda, perché... Farai anche da preda, Miki, te lo dico. Mi va bene tutto, sono bravissimo. Pronto a tutto. È la mia giornata, il mio weekend, quindi faccio dacci quello tutto che devo te fare. Stesso, esattamente, perché poi dopo non puoi farlo più, secondo me. Beh, insomma. Quando è la data del matrimonio, ragazzi? 17 giugno. Ma infatti stasera è l'ultimo giorno di caccia, l'abbiamo scritto sulle magliette, ultimo giorno di caccia del nostro sposo Michi. No, la caccia è chiusa. Si tira la pistola, sì. Rimane in fondina. Rimane proprio nella cassaforte, non la puoi prendere più, mi dispiace. Già. Ragazzi, volete fargli qualche domanda? Che siete curiosi? Una domanda che diciamo vi viene ma non gliel'avete mai chiesta. Amici. Vediamo. Sì. Allo sposo. Beh, ormai sappiamo tutto di Michi, cosa possiamo chiedere? Vediamo se sapete questa, la sua durata. La conoscete? Bisognerebbe. Dai, di quale durata stiamo parlando? Capito bene. Fino a tre volte ce l'ho fatta. Vedi? Lei tre volte. Io conosco anche altri particolari, ma qua non si possono dire. Ma sappiamo che Michi è molto più performante di tutti noi, amici, che siamo qui. Michi è il numero uno avanti a tutti. Il calibro in ambito di caccia è segreto sempre. È segreto, va bene. E la posizione preferita per cacciare la possiamo dire? Valentina, dici la tua, per favore. No, a noi interessa quella. Io sono quella che intervista. Scusami, non ce ne frega niente dello sposo, non interessa Valentina. No, io sono curiosa dello sposo invece. Io essendo cacciatore preferisco prendere la preda. Però la preda che ho preso ultimamente è lei che prende me. Anche per lei cui, cacciatrice. Lei è dominatrice, non cacciatrice. Ho capito. Prima domina lei, poi caccio io. La stai istruendo molto così. Bene, direi. La prima prova è stata. Lei prova a stancarmi, poi la stanco io. È giusto. Fate un po' ciascuno, io dai. Ma scusa, Valentina, ma visto che occhi da bambi che ha? Sì. Meravigliosi, che occhi da bambi che ha! Ha conquistato tutto il convento, tutte le spose del convento. Ma anche con questo outfit c'è da dirlo. E poi sotto il vestito niente. È quella che fa la differenza. Già. Lo vorrei solo dire. Allora ragazzi, facciamo una cosa. Salutiamo gli amici che ci stanno guardando, che mi sa che fanno parte del giorno dell'ultima caccia. Sono i balordi del 30 dicembre, perché noi abbiamo una cosa molto importante, abbiamo una festa. Ogni 30 dicembre ci troviamo e facciamo una festa fagiolata e birra e salsiccia e rutto libero. Tutti il 30 dicembre, il nostro capodanno, e noi siamo il gruppo del 30 dicembre. Ah, non è il 31, il 30. È la cosa più bella, il 30. perché siamo noi maschi siamo liberi di ruttare e la previgilia, ho capito, previgilia, bellissimo, è una cosa, nostro sfogo prima di doverci 19 anni di fila, 19, siamo al 20° anno e la cosa bella è che al 30 dicembre di figa neanche l'ombra. Vabbè, ma basta divertirsi, diciamo, tra di voi, non c'è bisogno per forza della figa. Poi il 31 torna e ci vuole il 31, cioè con la moglie, sì, con le varie prospettive ragazze, sì, sì. Se ci ricordiamo di averle il giorno dopo. Sì. Va bene ragazzi, io vi saluto, è stato un piacere, alla prossima. Allora, grazie a voi, grazie, ancora tanti auguri, ciao. Ciao, grazie, auguri, bellissimo.